Sono informato, c'è un treno che parte alle 7:40. Non hai molto tempo, il traffico è lento nell'ora di punta. Ti bastano 10 minuti per giungere a casa, la nostra. La chiave ricorda che è sempre lì. Strano e non capisco cosa c'è sui miei occhi. Da un minuto è sceso un velo, forse è solo suggestione o paura o chissà che. È possibile che abbia fin da ora già bisogno di te, di te, di te, di te, di te. Mi sono informato, c'è un volo che parte 50.